Hace algunos años, en un momento de debilidad, decidí retornar a la universidad. Alcuni anni fa, in un momento di debolezza, ho voluto ritornare all'università. Había abbandonado la universidad porque pensaba que estaba interrumpiendo mi educación. Avevo lasciato l'università perché pensavo che stesse interrompendo la mia educazione. Y en un momento de debilidad dije, regreso a la universidad. E in un momento di debolezza mi sono detto, vabbè, ritorno all'università. Y entré en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. E sono entrato alla Facoltà di Antropologia e Storia di Città del Messico. En un momento en el cual se estaba discutiendo el programa de la escuela. In un momento in cui si stava discutendo il programma della scuola. Y me divertí muchísimo. E mi sono divertito moltissimo. Moltissimo. El primer confrontación con la realidad es que descubrí que había tres cursos de paleografía. C'erano tre corsi di... La prima scoperta è stata che c'erano tre corsi di paleografia. Tres. Tre. Y no había uno solo de cómo contar la historia. E non ce n'era nemmeno uno di come si racconta la storia. O sea, el estudiante de esa escuela estudiaba durante tres cursos cómo leer un documento del siglo XVIII o XIX. Insomma, uno studente di quella scuola studiava per tre anni come analizzare, come studiare un documento del siglo del 1700-1800. Pero no tenía ni un solo día dedicado a preguntarse cómo cuento lo que investigo. Ma non c'era un solo giorno dedicato a come racconto quello che ho indagato. Había un curso en el último grado de cómo elaborar una tesis. Nell'ultimo corso, nell'ultimo anno c'era appunto un corso su come si realizza una tesi. La tesis es un producto de investigación original y absolutamente individual. ¿Cuáles son las reglas? La tesi è appunto un prodotto di investigazione e di realizzazione individuale. Come si fa a dare delle regole? Pero había reglas. Però c'erano delle regole. La más divertida era que la primera parte del curso se dedicaba al análisis del marco teórico. La prima parte del corso era que appunto si dedicava all'aspetto teorico. No, el marco teórico. Ah, el... La cornice. Sí. Sí. El marco teórico es un eufemismo. Es un eufemismo. Un marco teórico. Quiere decir que para estudiar cualquier cosa debes previamente establecer ¿cuál es el marco ideológico en el cual vas a proceder a investigar? Appunto, vuol dire che prima di studiare una cosa devi appunto individuare l'ambito ideologico in cui stai lavorando. Yo partía del supuesto de que el marco teórico es implícito al texto. E partivo dall'idea che appunto fosse implícito al testo. O sea, tu aproximación ideológica a un fenómeno está incluida en come cuentas el fenómeno. Insomma, che la tua approssimazione ideologica al fenomeno è inclusa nel modo in cui racconti il fenomeno. No, no tienes que hacerlo explícito previamente. Non devi esplicitarlo prima. Es como si llegaras frente a un enfermo. È come se quando vai se vai di fronte a un malato. Y dijeras, ahora te voy a tocar con dos dedos arriba de la barriga para. E gli dici, adesso ti toccherò con due dita sopra la pancia. Para. Eccetera. No, lo tocas con dos dedos y listo. No, lo tocchi con due dita e basta. Pero había un curso entero. Però c'era un corso intero. Y en ese curso entero nadie hablaba de cómo contar la historia. E in questo corso nessuno raccontava come si racconta la storia. Che alternative narrative hai? Che alternative narrative ci sono? Che approssimazioni narrative esistono? Che approssimazioni narrative esistono? Ergo la storia non era narrativa. Pertanto la storia non era considerata narrativa. Entonces descubrí la quinta esencia del fenómeno universitario relativo alla storia. E qui ho scoperto la quinta essenza del fenomeno universitario relativamente alla storia. La storia in aquel debate dentro della università. In quel dibattito all'interno dell'università, la storia era un meccanismo verbo-reproduttivo. Era un meccanismo di riproduzione del verbo. Yo te cuento la historia a ti para que tú luego le cuentes la historia a otro que será tu alumno y luego Io racconto la storia a te che la racconterai a un altro che è tuo alunno che a sua volta lo racconterà. Será algún día maestro que te contará la historia. Era como la reproducción ampliada del Capital pero lo bobo. Era la versión ampliada del Capital pero de la reproducción. Sí. Sí, pero a lo tonto. Pero era La función de las escuelas de historia es crear historiadores que sean profesores de historia, que den clases de historia para ser alumnos de historia. La funzione delle scuole di storia era creare degli alunni di storia che sarebbero diventati professori di storia, che a loro volta avrebbero creato dei professori di storia. E entonces, ¿para qué coño servía la historia? E a che cazzo serviva la storia? ¿Qué sentido tenía todo aquello? Esa escuela tan bonita. ¿Qué cosa sirvió a todo esto? Esta escuela così buena. Una excelente biblioteca. Una excelente biblioteca. Un montón de maestros inteligentes. Un sacco di maestri intelligenti. Otro montón de alumnos supuestamente inteligentes. Un altro sacco di alunni che si suppone siano intelligenti. ¿Para qué servía? ¿A qué serviva? Para crear este ciclo absolutamente endogámico. Per creare questo ciclo endogamico. Otra parte del programa. L'altra parte del programa era el debate sobre las diversas maneras de interpretación de la historia. Era il dibattito sulle diverse maniere di interpretazione della storia. Por lo tanto, había una serie de cursos de análisis. Pertanto c'era una serie di corsi di analisi. No de qué cosas habían sucedido. No su cosa era successo, sino de cómo los que las contaban las interpretaban. Ma su come coloro che le hanno raccontati le avevano interpretati. Era muy divertido. Era molto divertente. Asistí a un primer curso del propedéutico de la escuela y observé a un muy inteligente profesor contarme. Ho assistito a un corso, in un corso propedeutico ho assistito a una lezione di un professore molto intelligente che mi contava le ragioni per le quali i cronisti spagnoli delle Indie scrivevano lo che scrivevano. Che raccontava perché i cronisti spagnoli delle Indie raccontavano quello che avevano scritto. Il corso durò 3 giorni. Il corso è durato 3 giorni. En los 3 días nunca dijo qué era lo que escribía. En 3 giorni no ha mai detto cosa avevano scritto. Era metafísica absoluta. Era ocultismo, compañeros. ¿Sí? Era las profecías de Nostradamus en versión light. La profecía de Nostradamus en versión light. Bien. En esos momentos las tensiones en la escuela eran muy potentes entre los marxistas neandertales. In quel momento c'era nell'università una tensione molto forte tra i marxisti neandertaliani. Los marxistas neandertales son por definición organizaciones de 3 miembros que expulsan a y se escinden después. Sí, i marxisti neandertaliani sono notoriamente delle organizzazioni di 3 persone che ne buttano fuori uno e poi si dividono gli altri 2. Y que utilizan un hueso de este tamaño de mamut para pegarle en la cabeza, diciendo Lenin decía. Que usan un corno de mamut de esta dimensión para darle en testa a la gente, diceva Lenin diceva. Y que solo les preocupa la percepción macroeconómica del fenómeno histórico. Y que solo son interesados a la perspectiva macroeconómica de los fenómenos históricos. A los cuales yo asistía puntualmente a la primera de sus clases para preguntarles, ¿cómo explica usted que en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética el 85% de los miembros eran pequeños burgueses? A cui io assistevo in genere solo alla prima delle classi in cui alzavo delle lezioni in cui alzavo la mano e dicevo come spiegate voi che l'85% dei partecipanti del consiglio direttivo comitato centrale del Partito Comunista russo erano borghesi? Pequeño burgués. Piccolo borghese. O come spiega usted la situación clasista de Lafayette? Come spiegate la situazione classista della Lafayette? O come explica usted por qué la guillotina es definida como un instrumento humanista? O come la guillotina alla sua epoca fu definita uno strumento umanitario? Al no obtener respuestas y desquiciar, pues tuve que huir de esas clases. Non avendo risposta ho dovuto scappare da queste classi. En el otro sector estaban los micropositivistas. Altri settori erano invece i micropositivisti. Que lo que les gustaba de la historia era los cuentos, las bonitas anécdotas, Non stavano male, non erano mala gente. Che quello che amavano nella storia erano i racconti, gli aneddoti, i belli aneddoti, non era cattiva gente. Per esempio, in la epoca alla che non referimos, o la che si referiva al professor, les interessava moltissimo. Per esempio, quantas veces le había puesto los cuernos Maximiliano a Carlota? Per esempio, nell'epoca in cui, di cui parlava il professore, erano interessatissimi a quante corna avesse posto Maximiliano a Carlota. Però erano unos positivistas muy raros. Perché le cose minori che les dovevano importare, eso non les importava. Però, appunto, le cose minori che dovevano importare non le importavano. Por eso, quando ibas a sus clases, les preguntabas, perdón, un rifle Brown Bess, che era il che usava il ejército mexicano en 1833, che ventajas tenía sobre il rifle largo de Tennessee o Wisconsin che stavano usando los colonos norteamericanos? E te miravano con cara, el qué y el qué? Per cui appunto chiedevo, ma questo fucile che usavano in quella battaglia, che vantaggio aveva rispetto a quest'altro che usavano dall'altra parte? E ti guardavano dicendo che? E è un tema definitorio. E questo è un tema definitivo. Quando enfrentas a dos ejércitos, si uno tiene alcance de punteria a 150 metros e l'altro solo a 50... Quando appunto si affrontano due eserciti e uno ha una gittata delle armi di 500 metri e l'altro solo 150. Sì, entonces sabes que tiene que tener un nivel de aproximación diferente. Quando uno logra acercarse, tiene la metà de sus hombres heridos. Sai che appunto si devono avvicinare in maniera diversa, perché quando si avvicinano al campo, uno dei due ha già metà dei suoi uomini feriti. Pero no, esto no, a los positivistas esto no les interesaba. Pero pues de positivistas no interesaban. Eran unos positivistas de mierda. Si eres positivista, hay que ser positivista de verdad. Hay que ser positivista consecuente. ¿Sí? Y luego estaban los Nostradamus. Y pues eran los Nostradamus. Los Nostradamus tenían una teoría esotérica de la historia, ¿no? Era, era muy complicado de explicar. Porque... quando les decías, bueno, ¿y qué pasó? E quando gli dicevo, ma cos'è successo? Decían, no, eso no importa. No, questo non importa. Lo importante es la manera como lo interpreta, como ha sido interpretado. L'importante è la maniera in cui è stato interpretato. Y uno decía, sí, bueno, de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero para saber come fu interpretato, necessito sapere che passò. E uno dice, ma sono assolutamente d'accordo, però per sapere come è stato interpretato ho bisogno di sapere cosa è avvenuto. E te decía, no. E tu decías, bueno, entonces, ¿cómo puedo entender la interpretación sin entender el formato original, lo que llamas los hechos? Come posso interpretare, capire l'interpretazione se non conosco gli elementi originari, quello che si chiamano i fatti? E ti dicevano, no, eso es historia fáctica. E ti dicevano, no, ma questa è una storia di fatti, fattuale. E tu dicevi, ah, bueno. E tu dicevi, ah, va bene. E tu salías huyendo de los Nostradamus, ¿no? Salías huyendo, corriendo ahí, antes de que te contaminaran en exceso. E uscivi fuggendo, correndo, prima che ti contaminassero. Y eran buena gente, eran simpáticos. Ed era brava gente, erano simpatici. En los últimos 30 años no han producido un solo libro importante. Negli ultimi 30 anni non hanno prodotto un solo libro importante. No han producido un solo libro que haya tenido impacto sobre la sociedad mexicana. Un solo libro que haya tenido impacto en la sociedad mexicana. No le han contado a ningún mexicano su historia. No han contado a ningún mexicano la loro historia. Han currículum académico, han vivido el proceso de reproducción ampliada, maestro que crea maestro. Hanno solamente robustito il loro curriculum, hanno riprodotto il processo di riproduzione del maestro che genera maestri. Y han ordeñado la misma vaca muchas veces. E hanno muto la stessa vaca molte volte. Porque conocen la teoría de la vaca. Perché conoscete la teoria della vacca? Sí, la teoría de la vaca es muy sencilla. Tú eres historiador. La teoria della vacca è molto intelligente, tu sei storico. Nel momento di fare tu tesis, elige una vacca. Scegli una vacca. La vacca può essere las haciendas porfirianas en la zona de Atlisco nel siglo XIX. La tua vacca possono essere appunto le imprese, le aziende porfiriane. Nel siglo XIX. Nel 1800. En la zona de Atlisco. Nella zona di Atlisco. Entonces ordenas la vacca. E quindi cominciamo a girare. Haces una micro historia, escribes tu tesis, te recibes, y luego durante los siguientes 40 años sigues hablando de las haciendas porfirianas en la zona de Atrisco en el siglo XIX. Quindi scegli appunto la tua piccola storia, fai la tua tesi e per i successivi 150 anni continui a raccontare delle aziende porfiriane. Con una variante. Con una variante. Cada vez que vas a un encuentro internacional, nacional, extranjero, cambias el título de tu artículo. Ogni volta che vai nei cicli internazionali per presentare nazionali, cambi il titolo del tuo articolo, del tuo intervento. En el debate de la escuela al que asistí accidentalmente durante aquellas semanas, nei dibattiti di scuola a cui ho assistito accidentalmente in quelle settimane, estuvimos viendo los puntos que recibía cada profesor por qué tipo de actividad. Stavamo appunto ricevendo i tipi di punti che ogni professore riceveva per ogni tipo di attività. Si davas un seminario internazionale, 3 punti. Se teneva un seminario internazionale, 3 punti. Si davas otro seminario internazionale, otros 3 punti. Se ne dava un altro internazionale, altri 3 punti. Anche la vacca fuera la misma. Nonostante la vacca fosse la stessa. Eso no importaba. E questo non importava. Si publicabas en una revista especializada accademica, 7 punti. Se pubblicava in una rivista specializzata accademica, 7 punti. Si pubblicava in una rivista di divulgazione e di massa, medio punto. Una rivista di divulgazione di massa, mezzo punto. E tu dici, non può essere. E dici, no, non può essere. Todo el que lo hace sabe que lo más difícil que hay es escribir divulgación. Tutti quelli che lo fanno sanno che la cosa più difficile è scrivere divulgazione. Es convertir un ensayo académico tradicional en un contarlo a todos con el mismo rigor, pero contarlo. E trasformare appunto un saggio ponderoso dal punto di vista storico e trasformarlo in qualcosa di comunicabile alla gran comunità, di qualcosa di trasmettibile. Però solo te daban medio punto. Ma solo questo valeva mezzo punto. Y eso porque eran generosos. E questo perché erano generosi. Porque si no te quitaban tu medio punto por hacer algo tan vulgar come la divulgazione. Se no ti toglievano pure il tuo mezzo punto per fare qualcosa di così volgare come la divulgazione. Si lo hacías en formatos no tradicionales como cine, comic, non valía nada. Se poi lo facevi in formato non tradizionale come il cinema, i fumetti, proprio non valeva nulla. Era l'orrore assoluto. E bueno, a partir de eso decidí corregir el error y volver a la educación. A partire da questo ho deciso di correggere l'errore e tornare alla mia educazione. Che significava plantearmi in serio. Che significava dedicarmi seriamente. Come encontrare la correlazione tra la investigazione in profondità, in rigore, eccetera, e la narrazione. E come trovare appunto il punto di contatto tra una investigazione seria, documentata e la narrazione. O sea, come il rigore non poteva impedire la narrazione. Come appunto il rigore non arrivasse a impedire la narrazione. Como al fin y al cabo la historia es un arte narrativo. Porque alla fine sono giunto al punto che la storia è un'arte narrativa. También. Sí. También. O sea, no solo es un arte narrativo. Ah, non è solo un'arte narrativa. Pero es un arte narrativo. Però è sicuramente un'arte narrativa. Y sobre todo ir a la esencia del problema. E soprattutto andare all'essenza del problema. ¿De quién es la historia? Di chi è la storia? E di chi è la storia? Hasta ahora se han dado 3 respuestas. Finora mi sono dato 3 risposte. En términos generales. In termini generali. La historia es del Estado. La storia è dello Stato. El Estado es el propietario de la historia y cuidado no te salgas porque te rompo el culo a patadas si te sales de la versión oficial. E attenzione che non uscire troppo dalla versione ufficiale perché sennò io Stato ti faccio il culo a capanna. Y se reproduce la educación básica. E si riproduce un'educazione basica. La versione ufficiale, della quale è proprietario lo Stato. Della quale lo Stato è proprietario. E attua come proprietario. E esercita come proprietario. Eso sì, eso no. Eso sì, eso no. E dice questo sì, questo no, questo sì, questo este no. Personaggio sì, però non molto. Però questo personaggio sì, ma non molto. Ese personaggio sì, però non puoi dire che era gay. Questo personaggio sì, però non si può dire che era gay. No? y va estableciendo las reglas de la historia oficial. Y va stabilendo le regole della storia ufficiale. Che sono legittimadoras del governo attuale. Che sono legittimatrici del governo attuale. Bien, esa es la primera versión. Questa è la prima versione. La segunda versión es la historia de los historiadores. La seconda versione è la storia degli storici. Los historiadores son propietarios de la historia. Gli storici sono i proprietari della storia. Y la describen en un lenguaje secreto intracomunicante. E la, la scrivono e la raccontano con un linguaggio segreto di comunicazione nel gruppo. No? Intra. Yo te la cuento a ti, tú me la cuentas a mí. Yo te la cuento a ti, tú me la cuentas a mí. Yo te cito a ti, tú me citas a mí. Io cito te, tú citi me. Y son propietarios de la historia. Son i proprietari della storia. La tercera versión, que es la más subversiva, es la historia es la de los pueblos, coño. La terza versione è quella più sovversiva, la storia del popolo, cazzo. Y sí. Eh sí. Es tu historia, mi historia, nuestra historia. Es la tua storia, la mia storia, la nostra storia. Y es el material identificativo con el pasado que nos permite proponer toda clase de locuras en el presente. Ed è appunto il materiale esplicativo del passato che ci permette di affrontare qualsiasi cavolo di problema nel presente. En México se canta: quando Garibaldi suena la corneta, tutti i mexicani se bajan la bragueta. In México si canta: quando Garibaldi suona il corno, tutti i messicani si abbassano i pantaloni. È assurda la canzone. È assurda la canzone. Pero en la estructura simbólica lo que quiere decir es que cuando el jefe Garibaldi toca la corneta, uno se enseña, baja la bragueta y enseña el pito. Pero vuol dire, nella versione, ovviamente simbólica. No significa niente, pero nella versione simbólica vuol dire que cuando el comandante Garibaldi suona el corno, ti abbassi la pata e ti rifuori il pene. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, la canción tiene su origen en el México juarista, en el cual los reflejos profundos de la figura de Garibaldi tendrían un inmenso eco y habría una relación amorosa que se expresaba de la manera más brutal y vulgar del mundo. Ovviamente il significato era che c'era una relazione così forte tra il generale e il suo esercito che arrivava a qualsiasi punto. En Michoacán, en nuestros días, se sigue cantando en algunas comunidades purépechas: cuando Garibaldi suena la corneta, todos los mexicanos se bajan la bragueta. Eso es historia. ¿Cuál es historia? ¿Sí? Esta relación con el pasado absurda, ridícula, irracional, sin capacidad de decir qué significa. Una relación con el pasado irracional, divertente, sin la capacidad de crear conexiones sobre lo que significa. Acaba de asistir un bellísimo debate en la región de Guerrero en la que propusimos destruir todas las estatuas de Vicente Guerrero. Per esempio, vengo da un dibattito recente in cui si proponeva di distruggere tutte le statue di Vicente Guerrero. Porque todas las estatuas de Vicente Guerrero ignoran que tenía origen mulato. Perché tutte le statue di Guerrero ignorano che avesse un'origine mulato. Le habían dulcificado los labios para evitar la presencia de la imagen negra en Guerrero. Avevano addolcificato appunto le labbra per addolcire l'immagine, per mistificare l'immagine della sua origine nera. Y este proceso se produce en los primeros años de la independencia cuando Guerrero es presidente de México. E questo processo si è prodotto nei primi anni dell'indipendenza quando Guerrero era il presidente. La historia es contar cómo Vicente Guerrero era un comerciante mulato en la sierra que se volvió guerrillero. La storia racconta invece che Vicente Guerrero era un comerciante mulato che si è trasformato in guerrigliero quando comincia la... Y recuperar para todos los mulatos la identidad con el primer presidente guerrillero de México. E recupera per tutti i mulatti il collegamento con il primo presidente mulatto Guerrero. Ah, guerrillero. Guerrillero. Perché además hay que recuperar el apellido. Guerrero era un guerrillero. E bisogna anche recuperare il cognome perché Guerrero era un guerrigliero. Todo este debate de apropiación de la historia tiene que ver con varias cosas: reinvestigarla, recontarla. Tutto questo dibattito sulla storia comprende molte cose: reinvestigare la storia, riraccontarla e soprattutto contarla bene. E soprattutto raccontarla bene. De tal manera che tenga un effetto constructor a través della lettura dell'identità. Che abbia un effetto costruttivo attraverso la lettura, costruttivo dell'identità. Por eso me metto in una locura come questa. Per questo mi sono infilato in un casino come questo. Che è una locura. Che è un casino. No tengo conflicto con los mitos me gustan. Non ho problemi con i miti mi piacciono. Los mitos no son simplificaciones románticas de grandes realidades. I miti non sono semplificazioni romantiche di grandi realtà. Sono semplificazioni romantiche di grandi realtà. Sì. El problema es con los mitos fraudulentos. Il problema sono i miti fraudolenti. Cuando hablas del 5 de mayo, hay una estructura mítica en torno al 5 de mayo, pero es verídica. Sí. Fue así. Fue con pequeñas variedades respecto a la historia oficial. Los acapuastlas no existieron, Zaragoza duda si seguir la batalla después de haberlos derrotado y no se atreve. Hay variantes interesantes. ¿Sí? Pero fue eso. Quando parli del 5 di maggio ci sono un sacco di miti, però sono miti veri. Se basa in una storia reale e hai piccole variazioni quando studi la battaglia. C'è una storia vera e poi ci sono delle piccole varianti come quando studi la storia ufficiale. Però quando studi l'Alamo è basura pura. Però quando studi l'Alamo è spazzatura pura. Basura pura. Spazzatura pura. Hai... Tres patas tiene la mesa del mito del Álamo desde el punto de vista norteamericano. El mito de Álamo, desde el punto de vista norteamericano, poggia su tres colonnas. Ellos lucharon por la libertad. Hanno luchado por la libertad. La heroica muerte de los defensores del Álamo. La heroica muerte de los defensores del Álamo. Y las tres grandes figuras dirigentes del Álamo. Personaggi non discutibili e eroici della cultura nordamericana. E le tre grandi figure dei difensori di Alamo, eroi indiscutibili della grande epopea americana. Bien, no se sostiene, ninguna delle tre. Nessuna delle tre. Ni lucharon per la libertà. Non hanno lottato per la libertà. La battaglia durò 45 minuti, fu di notte e los arrasaron. La battaglia è durata 40 minuti, è stata di notte e li hanno massacrati. Y los tres grandes figuras del Álamo son no les prestarías una bicicleta usada a ninguno de ellos. Alle tre grandi figure non avrei prestato una bicicletta usata. No dejarías que tu prima de 15 años fuera al cine con Travis. No lasciare che tua cugina di 15 anni vada al cinema con Travis. Travis, que además tenía enfermedades venéreas, había abandonado a su esposa. Travis, que ovviamente aveva malattie venere, llevaba control de sus relaciones amorosas de una manera innoble, indigna. Gestiva le sue relazioni amorose in una maniera indegna. No combatió en su vida. Non ha mai combattuto nella sua vita. En el momento de los choques más fuertes al principio de la guerra de Texas estaba muy ocupado fabricándose un uniforme de gala. E nel momento del grande scontro, lo scontro più importante della guerra del Texas, si era impegnato a fabbricarsi un uniforme. Y era un personaje que era un abogado encargado de hacer negocios sucios y fraudes. Ed era un personaggio che era un avvocato incaricato di fare affari sporchi, affari loschi. Bowie. Es para llorar, Bowie. Bowie è fatto per piangere. Se inventa una biografia en la que dice que cabalgaba cocodrilos cuando tenía 3 años. Si crea una biografia in cui si racconta che lui in Louisiana cavalcava i coccodrilli. Era un trafficante di schiavi. Ed era in realtà era un trafficante di schiavi. No trabajó nunca. Non ha mai lavorato. Quando llega a México se casa con una heredera millonaria mexicana e se dedica a vivir del cuento. Quando arriva in Messico si sposa con un'ereditiera messicana e vive del mito, del racconto. Es un falso católico, se hace católico falsamente. Un falso católico. Y toda su gloria es que dicen que inventó un cuchillo de este tamaño, el famoso cuchillo Bowie, que ha hecho millonarios a los fabricantes de cuchillos norteamericanos. Hoy en día se venden 100.000 cuchillos Bowie al año. La cosa que lo ha reso veramente famoso es que se dice que haya creado este coltello, el cosiddetto coltello Bowie, che ha generato milionari negli Stati Uniti e se ne vendono tutt'oggi 100.000 all'anno negli Stati Uniti. Además, è poco chiaro per che serve un cuchillo Bowie. E non è chiarissimo a cosa serve un coltello Bowie. Di questa misura. Non tiene usos laborali. Non ha utilizzi professionali. È demasiado corto per essere un machete. È troppo corto per essere usato come machete. Para limpiarte las uñas es demasiado grande. Cioè pulirti le unghie è troppo grande. Bueno, pues el cuchillo Bowie no lo inventó. El coltello Bowie non l'ha inventato. E non sta hecho de acero di Damasco, mentira. E non è fatto di ferro di Damasco, è una menzogna. L'acero di Damasco, la fundición de acero a alta temperatura la conocían los cuchilleros ingleses del siglo XIX en el este de Estados Unidos de sobra, no necesitaban ir a Damasco a hacerse un cuchillo. La realización dell'acciaio di Damasco la conocevano già un secolo prima gli inglesi, non c'era bisogno di recuperare la tradizione di Damasco. Y entonces Bowie. ¿Y nunca Bowie? Crockett. Es uno de los más potentes mitos inútiles. Dice de sí mismo que mató un oso cuando tenía 3 años. Crockett es uno de los grandes ejemplos de mitos inútiles. Se dice que uccise un oso cuando aveva 3 años. Y cada vez que tenía tiempo libre iba y mataba otro oso. Y cuando aveva del tiempo libre andaba y mataba un oso. Cuando era diputado del Congreso norteamericano tenía frecuentes ausencias y ahí están el número de faltas que tiene las sesiones del Congreso porque se fue a cazar osos. Cuando divenne deputado del Congreso mancava un sacco di sedute e ci sono attestate le assenze perché andava a cacciare orsi. Tiene una máscara populista. A una máscara populista. Combatió a los indios Creek, pero tampoco de manera muy trascendente. Ha combattuto gli indios Creek, ma nemmeno in maniera incredibile. Se había hecho un mito como el hombre de la frontera en el Congreso norteamericano. Si era fatto mito con appunto raccontandosi come uomo della frontiera nel Congresso nordamericano. Se pensó en él incluso como un posible candidato presidencial representando el populismo de la frontera. Addirittura rappresentando quel populismo della frontiera si pensò a lui come candidato. Y cuando pierde las elecciones. E quando perde le elezioni. Dice, adiós, váyanse a la mierda, yo me voy a Texas. Y dice, a ver, adiós, andate a culo, me voy a Texas. Sí, casi textualmente. Y se va a Texas. A construirse un poder político en la nueva frontera. A construirse un poder político en la nueva frontera. Su correspondencia con sus hijos mientras está viajando hacia el sur es clarísima. Le sue lettere con i suoi figli mentre sta viaggiando al sud sono molto chiare in questo. Bueno, me voy a hacer un lugar, me voy a inscribir en el ejército y así ya podré ser candidato a... Appunto vado in questo luogo, mi iscriverò nell'esercito, così potrò essere candidato a... Sus heroicas muertes. La sua morte eroica. Finalmente sabemos que Crockett fue capturado y fusilado por Santana. Infine sappiamo che Crockett è stato catturato e fucilato da Santana. Y en una de las múltiples versiones dice que dijo que él estaba ahí accidentalmente. E in una delle ultime versioni ha detto che lui era lì per caso. Che era un botanico. Che era un botanico. E Santana dijo, botanico, fusílenlo. No? Pero, la versione del mito fraudulento. Nella versione del mito fraudulento. Nella prima versione, al lato del cadavere di Crockett, c'erano 7 mexicani morti. Nella prima versione del mito, a fianco al cadavere di Crockett morto, c'erano 7 mexicani. Pensando además que se combatía con fusil de un solo disparo. Oltretutto pensando que si combatteva con fucili con un solo proiettile. Habían sido golpeados a culata de fusil, o sea, bateados. Es el principio del béisbol en Estados Unidos. Insomma, doveva averli colpito usando il fucile come mazza. Probabilmente è stato l'inizio del béisbol degli Stati Uniti. En la segunda versión no eran 7, eran 14. Y en la tercera eran 22. Nella seconda versione i messicani erano diventati 14. Nella terza 22. Y así seguía. E così andando avanti. La muerte de Bowie. La muerte de Bowie. Es lo más probable que Bowie hubiera estado ya muerto cuando entró el ejército mexicano en el Álamo. La cosa più probabile è che Bowie fosse già morto quando l'esercito messicano entra in Álamo. Estaba agonizando. Stava agonizzante. Víctima de una tifoidea. Vítima de tifo. Y muy probablemente estaría ya muerto o agonizante. Llegaron y lo ensartaron. Y muy probablemente, o era ya muerto, estaba muriendo, son arrivati y l'hanno finito. En las crónicas mexicanas se dice: el cobarde Bowie se escondió detrás de una cama. Nella critica messicana si dice il codardo Bowie si è nascosto dietro un letto. No, non è che si escondiera, è che stava morto ahí al lato. No, non è che si è nascosto, è che era morto lì al lato. Però nella versione mitica David Crockett gli aveva dato 2 pistole. Ma nella versione mitica David Crockett gli aveva dato 2 pistole. E logrò matar 6 mexicanos antes de che lo accucigliare. Ed è riuscito a uccidere 6 messicani prima che lo accoltellasse. Con pistole da un solo tiro. Con pistole da un solo colpo. De tal manera che pones a un mexicano, luego otro atrás, le pegas al corazón, rezas porque los tres tengan el corazón del lado izquierdo y entonces matas de tres en tres. De manera que devi per forza mettere i messicani uno in fila all'altro per file di tre e devi sparare a sinistra verso il cuore perché ne per ucciderne tre. È delirante. La eroica muerte de Travis. La eroica morte di Travis. Según todos los testimonios, Travis corre hacia la empalizada en mitad de la noche. Secondo tutti i testimoni, a metà della notte, Travis corre verso la barricata, la palizzata, a metà della notte. Si asoma y dice, ahí vienen los mexicanos, y le pegan un tiro en la frente. Si affaccia e dice, ah, ecco i mexicanos, e gli sparano un tiro in fronte. Es uno de los primeros muertos en el Alamo. Uno dei primi morti di Alamo. Pero los testimonios de las versiones heroicas abundan por todos lados. Ma i testimoni della versione eroica invece abbondano ovunque. Io non ho visto tantos falsos testigos de un hecho come los testigos dell'Alamo, e cerca di 40 falsos testigos. Non ho mai visto tanti falsi testimoni di un fatto storico come è avvenuto per Alamo, ci sono circa 40 falsi testimoni. Hay algunos fascinantes, de un niño che stava lì, che tenía 6 años. Ce ne sono alcuni affascinanti, come un bambino che all'epoca era presente, aveva 6 anni. E che quando lo interrogano non dice nada. E che quando viene interrogato, poi successivamente ai fatti, dice non ho visto nulla, non so nulla. Però quando tiene 90 anni, scrive 2 pagine del periodico in San Antonio dei News. Ma arrivato a 90 anni è in grado di scrivere 2 pagine sul diario locale, sul quotidiano locale. Di San Antonio, contando lo che ricorda. Raccontando quello che ricorda. Una mujer maravillosa, encantadora, que dice que en sus brazos murió Jim Bowie, que ella tiene una herida de bayoneta mexicana en el cuello. Una donna fantastica, affascinante, che racconta che tra le sue braccia è morto Bowie e che sotto al collo ha la ferita di una bayoneta messicana. Pero esa mujer salió 4 días antes del combate. Ma in realtà, fuera del Alamo. Ma in realtà questa donna era andata via da Alamo 4 giorni prima della battaglia. Y así, y así, y así. E così, così andando avanti. Acabo de estar en el Alamo filmando un documental para el History Channel. Ho appena finito di... Vengo da Alamo, dove ho registrato un documentario per History Channel. Y encontré que hay 4 organizaciones dedicadas a explorar los fantasmas del Alamo. E ho scoperto che ci sono 4 organizzazioni dedicate a scoprire, a trovare i fantasmi di Alamo. Tienen conflictos entre ellas. Ah no, ovviamente conflitti tra di loro. Uno son tecnológicos. Alcuni sono tecnologici. Y utilizan unas cámaras de infrarrojo para detectar el calor de los fantasmas que no salen rojo en las cámaras y no sale azulado y que el fantasma se llama Ernesto. E utilizzano delle telecamere che percepiscono appunto gli infrarossi dei fantasmi e diventano o rossi con le luci rosse o con le luci blu e conoscono un fantasma che si chiama Ernesto. E quando gli chiedi sì, perché si chiama Ernesto? E quando gli chiedi ma perché si chiama Ernesto? E dice perché stava preso nell'Alamo. E dici perché era prigioniero in Alamo? Nunca hubo ningún prisionero llamado Ernesto en el Alamo. E non c'è mai stato in realtà un prigioniero chiamato Ernesto ad Alamo. Y cuando lo llamas viene. E quando lo chiami viene. ¿A dónde viene? E da dove viene? Se acerca la ventana y se ve la luz verde. Si avvicina alla finestra e si vede la luce verde. Me mostraban la luz verde. E mi mostravano la luce verde. A ver, ahora tómenme a mí. Fílmenme a mí. E dicevano: "Ah, dai, riprendi il mio amico." Y me filmaban a mí y yo salía rojo. Ah, no, a mí. A mí. Y yo salía. Mi filmavano e uscivo rosso. Entonces decía, yo no soy Fernando. No, no, tú no eres Fernando. Fernando es un fantasma que... Luego, están en conflicto con los otros, que son los psíquicos. Eso no... Psíquicos. Psíquicos. Psíquicos. Son en conflicto con otros que son los psiquiatras. Que dicen los psíquicos, Dicen que... la tecnología es una mierda, eso no es verdad. Lo que producen los fantasmas del Alamo son emanaciones psíquicas que no son registrables en una telecámara. E ti dicono che i fantasmi sono emanazioni psichiche che non si possono registrare con una telecamera. Entonces, ¿sí? ¿Cómo la registra? E dici come le registra? Y te miran como si tú eres idiota. E ti guardano come se tu fossi idiota. Recibe uno las vibraciones. Ma ovvio, ricevi le vibrazioni. Entonces los miras como si ellos fueran idiotas. E allora li guardi tú como si fossero idiotas. Están locos. Sono pazzi. Es delirante. Inclusive los historiadores más serios que han tratado el tema del Alamo, y decenas de ellos en Estados Unidos lo han hecho. E inclusi gli storici più seri che hanno trattato il tema di Alamo in Nord America sono decine. E con una visione critica. E anche con una visione critica. Io non ottengo mia informazione, il 90% del materiale informativo proviene da fonti nordamericane. Il 90% delle mie fonti informative sono di natura nordamericana. E muchas de ellas de segundo grado. E molte di queste di secondo grado. O sea, autores que consultaron documentación, bla bla bla, y luego están múltiplemente referidas, hay contraste. Insomma, autori che hanno consultato del materiale originario e infatti in alcune di queste versioni ci sono dei contrasti. Y hay versiones críticas. E hay anche versioni critiche. Pero se niegan a aceptar la gran versión crítica. Però tutti hanno mancato di disegnare in qualche modo la grande visione critica. Che è detrás dell'Alamo sta la schiavitù. Che dietro Alamo c'è la schiavitù. Y la especulación de tierras impulsada por los banqueros de Nueva York y Nueva Orleans. E la speculazione terriera spinta dai banchieri di New Orleans e New York. Y el espíritu expansivo de frontera. E lo spirito di espansione della frontiera. Non impulsato por el gobierno norteamericano. Non spinto dal governo centrale nordamericano. Una de mis grandes sorpresas fue descubrir que no había ninguna prueba de que hubiera presión del gobierno norteamericano hacia la independencia de Texas. Una delle mie grandi sorprese è stato che non vi è stata alcuna pressione da parte del governo nordamericano per l'annessione del Texas. Y descubres el porqué. En aquellos momentos el gobierno norteamericano no quería la creación de un estado esclavista en el sur que diera mayor soporte all'esclavismo. E ti spieghi anche perché? Perché in quel momento il governo nordamericano non desiderava la presenza di un nuovo stato nel sud, un nuovo stato schiavista che avrebbe rafforzato il fronte degli stati meridionali. Se va a producir hasta 10 años después con la anexión y la guerra mexico-norteamericana. E appunto la cosa si produce 10 anni dopo con l'annessione e la guerra nordamericana. Mexico-americana. El problema pues no es el mito. El problema no es el mito. Sino el mito fraudulento. Ma el mito fraudulento. Es 22 películas de Hollywood y he visto las 22. Por eso estoy en este estado, lamentable. Sono le 22, i 22 film di Hollywood. Hollywood ha fatto 22 film e io li ho visti tutti, per questo sono in questo stato precario. Sosteniendo eroicità, ellos lucharon por la libertà. Sostenendo l'eroismo, hanno lottato per la libertà. Y descubres en el fondo por qué está detrás de el pensamiento imperial bélico. E scopri perché c'è dietro il pensamento, il pensiero detrás del pensamiento. Ah, no, e scopri perché cosa c'è dietro il pensiero militare imperialista. No. Hay una frase que lo retrata muy bien. C'è una frase che lo rappresenta molto bene. Quando dicen, sin el Álamo no hubiera habido independencia tejana, lo cual no es cierto, pero sin el Álamo no habría independencia de Texas. Senza Álamo non ci sarebbe stata l'indipendenza del Texas. Sin la independencia de Texas no habría habido guerra norteamericano-mexicana. Senza l'indipendenza del Texas non ci sarebbe stata la guerra tra Stati Uniti e Messico. Sin eso no hubiera existido la California norteamericana. Senza questo non sarebbe esistita la California nordamericana. Y Estados Unidos hubiera sido un poder atlántico y no transatlántico pacífico. E gli Stati Uniti sarebbero stati solamente una potenza atlantica e non transatlantica atlantico pacifico. Sin haber sido una potencia y así siguen hasta llegar a nuestros días. E così è diventata una potenza e così andando avanti fino ad arrivare ai nostri giorni. Es paradójico y sorprendente, pero en el corazón podrido del pensamiento bélico imperial norteamericano no está Washington cruzando el Delaware. È incredibile, nel cuore putrido dell'imperialismo americano non c'è Washington che attraversa il fiume Delaware. No está Lincoln en el discurso de Gettysburg. Non c'è Lincoln nel discorso di Gettysburg. No está Pocahontas dando maicito y cambiándolo por pavos a los... E non c'è Pocahontas che dà il che distribuisce il mais ai coloni. Está Remember the Alamo. C'è Remember the Alamo. Sì. Una derrota. Una sconfitta. Una derrota tejana e non nordamericana. Una sconfitta texana e non statunitense. Però il mito bellico di murieron por la libertà. È il mito bellico di sono morti per la libertà. E l'idea della ultima frontiera. E l'idea dell'ultima frontiera. Ultima frontiera che per il pensamento imperiale non esiste, sempre avrà altra frontiera. L'ultima frontiera che per il pensamento imperialista non esiste, ce ne sarà sempre un'altra di ultima frontiera. Nadie in Iraq, in Afghanistan, in Kuwait o in Vietnam farà referenze a Washington cruzando il Delaware. Nessuno in Iraq, in Afghanistan, in Vietnam ha mai avuto come riferimento Washington che attraversa il Delaware. Però hay una foto de los muchachos de la Magnum de una barricada en uno de los fortines en el Alto Vietnam. Però c'è una foto della Magnum che rappresenta un fortino nel Vietnam del Nord. Con un letrero hecho a cuchillo che dice Remember el Alamo. Dove appunto c'è su un muro scritto con un inciso con un coltello Remember the Alamo. Eso.